senta cuffetta. E lu. E io ci sei. Ciao cuffetta, e ti faccio? Niente, mi stavo facendo la barba. Adesso mi sono barbato e mi stavo prendendo le medicine. E cosa stai facendo? Perché la barba ti cresce? Io lo credo, con un cortisone, una di sì e una di no. Mi dà forza, che mi cresce un bel. E ripeti, ogni due mesi mi bacio la macchinetta. Che adatte, questo oggi di breve, questo bagu, la scimmia di Bangladesh. Il cortisone ti fa uscire i peli, se più escono prima. Ah, ecco. Quella di oggi, no? Ehi, infatti, sono che maglietta, ero ad alzare il sorazzo, ma ci sta bene al caldo, oggi è la primavera. No, non è la gioventù, non dice la primavera, grazie. Ah, ecco, è vero, il 21, oggi che ce l'avemmo, di giù, sabato, primavera. Vabbè, forse vi seguivo tanto, o no? Ehi, giù, che cosa sei venuto di nuda? E che ci sei venuto di nuda? Un telefono. No, ieri ho messo la pacchetta bianca in cucina, stava sfogliando e l'ha rassegato con un raccetto, però volevo ripreso con lo zucca che mi ha fatto cacche socco, cacche un bel socco che mi ha fatto. E va bene. Ma non ci compresi niente gli socchi? In avoglia come se si stava sfogliando un pezzo, no? Di quella tinta, perché non era adatta quella tinta che avevo passato io, era per le camere, non per cucina. E quella lì si sfoglia, no, col tempo. E si stava sfogliando e l'ha rassegato, ma alla faccia del rassegato mi ha fatto le socchi in avoglia, in un pezzo, e si vede un bel avanti. Basta succhiarlo, poi lo stucco, ho visto raso c'è. E poi glielo levi bene, vedrai chi non si vede più da voi. Già lo so, già lo deve fare oggi, la mia canna non le ha giovato qua, già lo sa fare. Dico io come fare, già lo fa lì, capito? Già ce l'ho quello zucco. Tu male, se la canna ve lo posso fare, se non gli avvenne il tempo, va? È una passata in tinta, gli altri, di quella però per cucina e per i bagni, capito? L'avevo comprata e la voi non la giù trattata chi la ripidare. Ma che te l'ho fatto un nipote? Paoletta, cosa mio nipote? Cazzo me li butti? Sì, casa Paoletta te lo puoi fare, grazie, ma vai, vai. Mica lo sa fare, neanche chicca mi migliora, lo sa fare. Infatti poi è venuta chicca e l'ha continuata a fare chicca, una prima mano. Adesso c'è da fare, rasare quel pezzo lì e chi cagli dalla seconda mano. Vabbè. No, vabbè, Maria già mi dà una mano, lo tingiamo, li fa Maria adesso, mi fa il bordo, capito, la parte bassa. Anche Paoletta quando tingevo in alto, lì faceva la parte bassa, io facevo in alto, capito. E anche Chica mi vigliura, me la regavo a Chica, la portavo quando doveva andare a lavorare con tu mio, di muratore, mi faceva da maniare, mi preparava l'impasto, a casare la casarelli, oppure a carriola carriola. Io gli dicevo cosa doveva mettere, no? E lui lo metteva e poi l'impastava e me li arregava, capito? Era di quella di imparare da minori, a fa. Ho capito, vabbè. Grazie. Santa arrangia di. Sì, sono, ti dico, sì, di due chiamate uno a pagare. E ti guscia. E chi scemo so, come lo saranno? No, a parte che gliel'ho imparato io, anche per loro stessi, per un indomare. Infatti chi casa arrangia fa un po' di tutto, ma vabbè, dai un simile. E Paoletta già si arrangia a fare qualcosa, già lo sa fare, perché catrami sul tetto? Non la metto sul tetto, adesso come chiamarlo. Col cannello. Quello a freddo, quello a freddo. Ah, la quella liquida. Quella liquida, ma sa pure che c'è un cannello, abbiamo visto un bel di voci pure in campagna, come si fa. Cioè, guarda Paoletta, già se ci vuole lo fate buruetta. Meglio così, grazie. Sono dei risparmiati, sono. Già, lo credo. A me se ne smonta pure le prese di corrente, si racconsaetta. Ecco preso, si chiama uno, vi vuole pedinare da chiedo che il materiale che comparecci, o no? Vabbè, io una vicina di casa gli ho cambiato prese, interruttori, e gli ho preso 50 euro. Ehi, Giornalino, che mi raggio già di tutti, mi danno i ricatto le rotonde. Mi raggio tutti voi, raggio bocce, si resta ancora e poi mi ho preso queste prese qua, grigie, da Valacore, quando era lì a Santa Barbara, della Ticino, e me le avevo tutte cambiate. Adesso non ci sono più questi interruttori, perché ho chiesto, già ce l'ho qualcuno col salvato di scorta. Ho capito. Vabbè, adesso l'agiamo pure noi. Cosa ha fatto? Allora, praticamente sono andato a pensare a un'antenna, no? Tutto a posto, no? I canali, tutto quanto. Solo che non mi dava segnale, con partito nessuno mi dava segnale. E allora gli ho messo uno dei miei, me sono andato che era tutto a posto praticamente. Dopo due giorni mi richiama e mi ha detto che non si vedeva più Mediaset. Questo boh, mi pare strano, l'antenna non si è pulsata di nulla. Morale la favola, cosa che si è fatta? Ha preso e attaccato l'amplificatore, non ci vuole l'amplificatore, a parte che Montreux ce l'ha di fronte, e ha bruciato due partiture, ha bruciato. Sì, beh dai, non mi giubai. No, a me ieri mi sono arrivate quelle due antenne, che c'è la pubblicità, che attacchi il figlio e te l'attacchi in casa, minore e minore. L'ho messa una in cucina, non so quanto si vede bene. Ma si vede tutto da buio. E l'altra me la metto in salone, l'antenna del televisore. È pigliata per tutto. Si vede vecchi, ma monterò di fronte, grazie. Ehi, ma mi ho messo questa antenna che mi avevo ordinato, due ne ho ordinato. Due cassate ce ne vedo, un pezzo di plastica, un pezzo di vino e lo spinotto. Eppure funziona bene, per dire, no? Una cosa da nulla. Vedi, se io la metto a casa non va bene quella. Invece se la metto anche in marina va bene che ce l'ha di fronte Monteoro, a Puglia. Solo che già c'è l'antenna nel terrazzo, a Puglia. Noi vediamo tutto lo stesso. No, ma io l'ho presa così, elimino il filo che ci passa dal terrazzo a cucina, no? Siccome passa tutto nel muro con l'isolatore sulla ringhiera. Poi adesso che passano a fare le ringhiere, intanto me ne rabbarazzo, visto. E Luca ha detto, vabbè, non è tratto, mi sa, devi darmi gratuita. E così non c'ho bisogno né dell'antenna esterna con questa e né di filo pura, capito? Basta prendere dappertutto, prende anche se la metto dentro il cassetto e attaccata al televisore, funziona lo stesso. Ho capito, meglio così. Vabbè, ripeto, perché c'è il Montero di fronte. Ma anche se la metti nel cassetto funziona, capito? Anche se c'è un Montero di fronte. Ne ho preso due, 62 euro paga, 61,99, da 62. Sono ben comodi, così non sto con il subito dell'antenna. Che 70 euro l'hai pagata, tanto vai di buoni un'antenna. Un desio di quasi, desi, un ventiro di quasi l'antenna tra capigliuria. Dici si direttivi, e funziona a livello ma stessi. Ma ne ho preso due, mi di queste, erano due, non una. Ma l'antenna è a villaggio e non ce l'ho lo stesso, è fuori. Ne ho due di antenne, ma una è collegata alla camera da letto e questa casa di cucina c'è l'antenna a parte e c'è quella di cucina solo. E poi il salone c'è quell'antenna che avevo preso la bricca, ma che si vede bene lo stesso, che è dentro casa e funziona per me stesso. Solo che c'è la bricca, l'avevo pagata quasi 50 euro, e però già funziona bene, da. E quella là adesso, boh, se ne stacco quella in camera da letto, boh, la attacco in camera da letto, così quelle esterne non le uso, le lascio, però non le uso. E vabbè, quelle te le uso, non ti servono, grazie. E vabbè, così. E via. Oggi ho mangiato l'ultimo pezzo della doccia, l'ho fatto con torta, bah, con la ricotta e l'uva passa buona. Ah no, mio, c'erano le passe, ieri mi ho mangiato mezza pesca, ce n'era rimasta l'altra mesa, ma non ne ho mangiata, si è mangiata Paoletta. Ma se fa dolce, non è che non mangio dolce, se mi pongo a mangiare, ciao, ma non ne mangio. A di notte mangio fatto l'udde, la notte adesso c'è notte, più leggero. Almeno dormo un'ora in più. Arrivo, stamani, ma dimmi se mi lasci da un gran fare il zicco manco un quarto. E mi sono così pulito di pizza. E invece a partire ieri alle 4 me ne sono cominciato. Alle 4 ero in piedi. A chi va via le gran fatti te due langhi. Io stamattina mi sono svegliato alle 4, mi pare, 4 e mezza se non mi ricordo. No, a partire ieri alle 4 e me ne sono alzato. Cioè, me lo dirò da trappa, provare, invece mi sono tornato a venire e me ne sono cominciato. Stamattina le dico ma con quattro, come ti mi ha già messo luce, a chi mi fa chiamare anche. Oh, ha già pensato, porto la vita e me ne sono venuto in cucina, e tante nutri, mi pensavo e mi tornava a cucca, a chi me, non mi basta così. Dunque mi sono costato in cucina, ma... Come mai ti vengono questi crampi? Dal cortisone, alle gambe mi vengono e alle mani, le mani mi s'aggrancano i bruchi. Parini due artigli dell'acqua, ma non sai i dolori, ti tira i nervi. Ma pompe ne hai basta con questo cortisone, pompe di tempo ne hai. E tu sai che è davaggio, ma ne ho uno, due fissi ne ho, quelli ce li ho fissi, quello a spruzzo, lo devo fare due volte la mattina e due volte la sera, e la mattina c'ho anche mezza pastiglia di azzato prima, chi se parabanza, lo cortisone, e quello lo devo prendere per sempre. Però ti butti di gas, di farmaci, va. Sono tutto imbottito di medicine, infatti mi dovrei tutte e due anche più di 10 minuti in piedi non ve l'agguanto, mi si biggia nel brucchio, allora mi devo bussare, ma adesso faccio magari aggiunta a paletta, ma tutto ribiato e cose così, e mi si muggia nel altro, se sto con 10 minuti in piedi allora mi devo bussare, ma con 5 minuti me ne dovrà pensare. Oh yeah, mi sa che sei vecchio un buco, cazzo. Oh yeah, vabbè, se vuoi fa. La vita è la fortuna. Quando uno c'ha la salute, ti cosa ne so, anche a 80 anni, ti faccio un esempio, uno che sta bene, è la fortuna. È uno che sta bene, poco viene giù il cazzo di me. A parte che ci deve muri muri, stai bene o stai male, se ha giusto che su. Parente di mia moglie che abitava qua giù, Genuario, Marica Genuario si chiamava, quello mai fumato in vita sua, mai bitto in vita sua, non sapeva manco cosa voleva dire un'imbriaghina, manco cosa ore di rubino sapeva. Beh, le è giunto un dolore a bocca e cosa valia? Il tumore. È andata a Milano, sei preso tutti i canti rilinati della liquidazione che gli toccava, più di 10.000 euro venivano mangiati a Milano, e più il resto venivano mangiati pure i noghi, e beh, in giro di due chiese è morto. Ma da poco è morto? No, fa un po' di anni, ma questa può continuare che sarà morto qua. Non sono ricco da fare, è mia moglie. Ma giovane era. Aspetta un attimo. Ciao Luca. Ciao Giuseppe. E allora, questa quarantena come va? Questa quarantena ho preso 40 kg già. mi pare che è un poco tutti mi. Io mi sono mangiato mezzo chilo di noccioline poco fa. Cazzo, Giuseppe andare in bagno di fascia. Ehi, mi metto il caschetto che metto quando vado in bicicletta. Sempre c'è un bello stesso, ma non ne mangio. Mille noci sto mangiando, due a pranzo, due a cena, anche tre, dai, dipende. Ehi, noci, cazzo, non ne va vedemo. Noci sono in brea come moglieri. Ogni volta che vado dai Rospin me ne riempio un sacchetto. Vabbè, noi già Marina le prende così, sono mezzo chilo a Puglia, ci durano due a testa a Puglia. A me piacciono la frutta secca, buona. E poi io quelle arachidi, quelle salate, mamma mia. Anche quelle, lo so. Anche a me piacciono pistacchi, nulla. Ciao, grazie, ben sentito. Stavo dicendo a Luca, stavamo parlando di questa quarantena che ne siamo obesi. Non mangia, mando un cugnolo di noci e sa, non buono, l'ho assaggiata l'altro giorno, solo quando non hai denti. Mi viene male e non ha più mangiato. Poi c'ho anche quegli arachidi, è pieno noi di frutta secca. C'ho ancora da dicembre quei picchi secchi, i dattili, figurati, non ci vado matto. Buoni. Vabbè, ma è giusto per passare il tempo, come stavo dicendo a Luca, tanto stai da una sedia all'altra. Ora faccio l'abbinamento, rimani salvato. Ecco, ho spentato il televisore, a chi ci sono prima se sei giorni, ma te ne l'ho spento poco fa. Vai. Cose buone sono, a me io c'era un periodo che mi mangiavo le mandorle, anche due etti, un giorno ho avuto questo blocco, ui. Mandorle nostre sono buone, però ho detto. È un po' tutto che fa male comunque se si esagera, un po' tutto. Stamattina sono andato a fare una commissione per i cosi, per la municipale. Mi hanno chiamato se potevo dargli un po' d'assistenza per alcune cose insieme alla protezione civile e sono uscito un'oretta e cazzo sono passato di fronte a Eurospin, ma è possibile cazzo, per Arumonto. Lì in Vene Porto Torres è positivo cazzo, è pieno, ma sai che vuol dire il piazzale cazzo, fa zia la gente il giro con i carrelli del piazzale. Lo so, sono andato ieri io. Poi sono arrivato e dici tu chiatta, e non ci guardare la vita, vabbè. Mi sono messo in fila e poi ho chiesto, ma fanno entrare uno a uno, sì, ma non male che escono, fanno entrare le persone. Cioè da come ne vado, era quasi l'una era. Cioè da come ne vado alle tre minimo, tre e mezza. Cosa ho fatto? Ho preso, ci ho rimesso a posto il carrello e sono andato a prendere niente, ha fatto subito, in fretta. Magari lì c'è meno gente, io se ce la faccio mi avvicino domattina, prendo un paio di casse di latte e poi vedo, per non stare lì a uscire ogni pochi giorni, almeno per una settimana la faccio la spesa, poi vediamo come si sistemano le cose. A chi mi pare che era niente con la scusa della cosa di fare la spesa, per niente riesce a pigliare un etto di cosa, di affettato. Infatti, ma anche voi siete chiusi Giuseppe, sì o no? Siete ancora aperti? No, noi siamo chiusi, non è cosa con cui si può scherzare questa mala sorte. Chi ve lo fa fare a, come si dice, a, bah, Vabbè, a stare lì, a rischiare, ecco, quello non mi voleva la parola. Vabbè. Pure grazie alla in quarantena, vero, grazie. E allora? No, è andata mia figlia oggi. Se ci dà, mezzo manco qua te ne trovate la una in mezzo. Adesso ti vivere al mondo. Io grazie a domani mattina esco da qua alle 8:15. Tanto apre alle 8:30. Ma anche se sono il quinto, il sesto, ma anche fai che sia anche il settimo a quell'ora. Per me, guarda, va anche fin troppo bene. L'importante è che la gente si deve mettere in testa che quando esce non deve pigliare una cosa, grazie a, e poi il pomeriggio è di nuovo lì, o l'indomani è di nuovo lì, se no da questa situazione non ne usciamo più, noi non ne scimmo più. Lo so, così, ho mezzo caso solo, ma è andata perché non mi ha messo già dove pigliare, se no io già la spesa me la faccio unica per tutto il mese, capito? Anche noi, grazie a, per tutto il mese, soltanto che so, con la scusa che le ragazze sono a casa, mia moglie a casa, ti buona fa un budino, ti buoni e ghiddu, che da che mai successo, quasi quasi mi faccio un po' di latte caldo, ecco, e la roba sembra così ma ci sta uscendo. E beh, e qui è la stessa cosa, vedi chi da si bicarito, vedi chi da si bicarito. Poi va a guardare, magari non ce li più, e non ti dicono niente neanche, quando l'hanno finito. E allora io tocco sempre ogni tanto a baito, se ci manca qualche cosa, dico mica a due, ci da travagliare, passa e pida, su che chi non venne, capi? È così, grazie. E io così faccio domani. E scendo, adesso mi faccio preparare una lista, perché per prendere due casse di latte verrà giù detta a mia moglie, una giovenza ravagogna. Fai un coso, vedi un pochino quello che serve, a costo di riempirmi il carrello di casse d'acqua, tanto l'acqua già serve sempre, non è così? Ha voglia. Allora, noi ce l'avevamo l'acqua, Marina gli ho detto, la prendo l'acqua, ma lascia stare che già c'è. No. Allora, gli ho preso altre tre casse ieri. Adesso domani facciamo la spesa, quello che serve, là. Ora andiamo lì a Pradanieta, usciamo presto, sicuro che non c'è nessuno. Oh, mi raccomando, quando uscite, occhio che dovrebbe essere solo una persona, mi fate molta molta attenzione. Magari entra lì, si fa la spesa. No, prendiamo due carrelli. Allora io prendo la roba per la mamma, lei se ne va per i fatti suoi. Eia Lu, su quello d'accordo. L'importante è che quando arrivate lì, uno prende un carrello e l'altro prende l'altro, senza dare nell'occhio, perché sono 175 euro. Te lo sto dicendo, stamattina ero con la municipale in giro. Certo. Cioè in due, ma le temuglie non possono entrare così. Negativo perché sono sempre due persone in più che possono portare il contagio, mi hai capito? Se io esco con mia moglie, siamo due persone che possono portare contagio o che possono essere contagiate, mentre se entro io, hai capito, sempre una persona della famiglia. Questo è quello che ti sto dicendo in confidenza, senza dare molto nell'occhio. E se ti dovessero fermare, certo non dirgli sto andando a fare la spesa, a chi mi vede in due. Certo. Vabbè, meglio che me l'abbia detto. Eia, vedo un casino, questa cosa se non finisce, speriamo questo prima possibile, perché sta già iniziando a dare noia. Olu, come stiamo dicendo e come stiamo cercando di fare, anche come zoofile e come tutto, è non stare in giro. Non stare in giro, perché poca gente in giro, poco contagio. È inutile che stiamo lì, c'è gente, tanto a me non succede. Non è assolutamente vero. Se tu prendi l'esempio, tu prendi e metti sul tavolo una fila di fiammiferi, ok? Una fila, fai 50 fiammiferi uno vicino all'altro. Ne accendi uno, che cosa succede? Si accendono tutti. Ecco, adesso tu, da quei 50 fiammiferi, togline uno, ne togli uno, vedrai che il coso si ferma. Se tutti avessimo fatto così, stai tranquillo che non saremmo stati nelle condizioni in cui siamo. Cioè, ma ti rendi conto che all'ospedale stanno facendo entrare gente per visitare i parenti? Cioè, ma fuori da ogni logica, lì vogliono arrestare i dirigenti dell'ospedale. No, quello lì proprio avrei bloccato tutto, ma stiamo scherzando. No, al massimo se un parente portargli una bottiglia d'acqua o qualche cosa così, ma andarmene subito. Oppure fare un passamano con gli infermieri o con gli osso che ci sono lì. Ma no, ma non esiste. La cosa sta andando peggiorando comunque, Giuseppe. Beh, adesso te la dico tutta e poi passiamo la palla a Graziano. Allora, noi stamattina siamo andati all'ospedale per portare le tute sterili. Sono riuscito a recuperarne un po' e niente, mi sembrava giusto fare quello che abbiamo fatto, dai. Però il discorso è, come ha detto giustamente anche il comandante stamattina, c'è tutta quella gente, ma cosa cazzo ci fa? Ma tu devi vedere, cazzo, è un continuo via vai di gente. Lo so, ma Giuseppe, non si trovano mascherine da comprare, boh. Vai dai cinesi che le stanno regalando, dovrebbe essere quello dietro, come si chiama, quello vicino a Città Mercato, Cisalfa. No, è chiuso. È chiuso quello. Tutti i negozi cinesi li hanno chiusi, tutti. Ma so che stamattina ne hanno donato non so quante migliaia di cose, di mascherine alle cose, per le cose dell'ospedale. No, io so che è chiuso, sono passato anche ieri per andare alla Pradanieta ed era chiuso. Comunque, ascolta a me, Grazia, perdonami se ti sto portando via la parola, te la do subito. Però per le mascherine, o Luca e Graziano, guardate, ci sono i video su come farle e sono migliori, credimi, di quelle che stanno vendendo. Io capito, con la carta a forno e vabbè, già lo so Giuseppe, l'ho visto. No, se mi metto già me la faccio, c'ho tutto, elastici, tutto. E vabbè, adesso vediamo, comunque ce l'ho una, dai, la sto usando, è buona ancora, dai. Dicono che quelle sono, non sono di quelle di carta, questa che ho io, quella più resistente. E adesso vediamo, tu grazie, c'è la mascherina. Ce l'ho di qui, sì, di farmacia, di bambini, e c'ho quella che usavo a verniciare, con due filtri e uno centrale, ed è buona lo stesso quella, nuova, l'ho usata poco e niente, ma ce l'ho già. Comunque mi sono risciaccalli su internet, allora c'era su eBay 25 mascherine di quelle, c'è un filtro mi sta davanti, 25 mascherine 377 euro. Lasciali stare dove sono, quelli vogliono presi e denunciati subito. Tu figurati, io ne ho una, la FFP3, è quella proprio ufficiale per i radiazioni, i cosi chimici, batteriologici e quanto c'è. Tu figurati, io quella ce l'ho già da una settimana, una solo, anche perché quando fermi gente non è che ti puoi mettere a parlare così, anche se sei lontano un metro e mezzo, questa cosa è nell'aria, mi hai capito? Infatti è quello, è nell'aria, sì. Poi stamattina mi contatta vostro ragazzo, mi ha mandato questo screenshot e mi ha chiesto se ero io che gli avevo venduto le mascherine su subito.it e praticamente gli ho detto che non ero io, questo Luca Poddighe, no? Che praticamente del 90, ha detto, a parte che non sono manco io quello lì, io sono di un altro anno, gli ho detto, non sono io. Comunque gli ha fottuto 150 euro. Sì, ma è da stupidi comunque comprare online mascherine. Ma tu ne sai molto se questa cosa è usata, è stata pulita? Ma infatti, cioè, cosa contatti a me, chiede a me se sono stato io, cosa da pazzi. Comunque niente, ti ha dato il nome, era Luca, subito, però la carta è stata un altro nome, cioè, ma pure tu intelligente a fargli la ricarica così, poi con Poste Pay, tranquillo che sei fottuto. Ecco, vai, grazie. Ciao Luca, Marco, per cortesia, mi puoi dire come mi copi? Sto provando l'antenna. Forte e chiasso, perfetto. Ehi, Alu, ti ringrazio, se riesco ti mando la foto di cosa sto usando di antenna. Ciao, ciao a tutti, sento solo te. Aspetta, ti mando avanti grazia, no? Avanti grazia. E chi è l'Alu? Marco Condor, avanti, lo senti Marco Graziano? E mezzo al QRM, solo te sento lui. E Giuseppe neanche, avanti Giuseppe. Ma sì, eccomi qua, ciao Marco, se mi senti. Aspetta, grazie, avanti Giuseppe, lo senti a Marco? Allora, io a Marco lo sento, se lui mi sente, buonasera da questa parte Giuseppe. Ciao Giuseppe, passo passo ma ti copio, Luca è una bomba. Ok, va bene, vi ringrazio, dai, proseguite. A fondo scala sei da me Marco. Ma sei a casa tua ora? Oh, la 25. Caspita, un mozzicone di antenna. Vabbè, buono, poi ti farò sapere, ciao. Ma quelle piccole sono tipo su posta. È una micro grand plane. Vabbè, mandami la foto, dai. QRT esecutivo, ciao a tutti, buona serata. E ya, ciao. Ma qua da me arrivava benissimo, da te grazie, lo sentivi bene? Sì che ti sento bene, anche a Marco sentivo. No, dico a Marco, lo sentivi bene? Sì, sì, però lo dovuto girare la radio, abbassarla. Adesso arriva, eh. Eia, già ti sento Marco. Eia, ciao grazie, dai, ci sentiamo quando ho un po' più di tempo, dai, adesso mangio. Ciao a tutti, ciao. Ok, ciao ciao, riprendi Luca, mi sto mangiando lo yogurt. Mi raccomando, ma sì che ce lo vemmi. Quello è vero, poverello, eh. Senti un po' massicato, vero Giuseppe? Si conferma, se non vuoi, è normale, no, se non lo mastichi lo yogurt e poi ti rimane sullo stomaco. vabbè, dai, prendiamocela. Cioè, dobbiamo rimanere sul positivo, se poi siamo negativi è un casino, là. Ci vuole pazienza. Tu cosa dici Giuseppe? Secondo te quando è che finisce questa cosa? Secondo un tuo parere? Allora, le previsioni sono che il picco dovrebbe terminare entro la prima settimana di aprile, se tutti facciamo da bravi. Queste sono le previsioni. Fine aprile dovrebbe essere primi di maggio, forse cominceremo a dimenticare questa avventura. Perché parlano di luglio anche. No, vabbè, quello è il presidente della regione, lui giustamente le mani le mette avanti, essendo il boss, chiamiamolo così, di tutta la storia, anche perché dovendo succedere qualcosa e scoppiare la pandemia qua in Sardegna, il primo a rimetterci è lui, quindi lui si mette il vino in fresco, non tanto lui dice, io intanto la cosa, l'emergenza la dichiaro sino a luglio, poi se finisce prima tanto meglio, ma non è così. Sì, chi Dio ti intendia, per carità, è un casino, non si può. No, ma poi c'è tutto, troppe cose, quanti soldi persi, ah, Giuseppe, di la verità. No, ma vedrai che ne usciamo. E la cosa che mi dà più fastidio è, sono, come li posso definire, gli imbecilli, dai, quelli, te l'ho detto anche poco fa, quelli che escono senza... preoccuparsi minimamente del prossimo, minimamente, ma nemmeno della famiglia, perché questa gente sono sicuro che famiglia non ne ha, parlo famiglia tipo moglie, figli, magari ha i genitori, e dei genitori se ne frega altamente, come se ne frega altamente della società. Perché questa gente una volta che si infetta, questi non gliene frega niente, perché se appena appena la gente avesse avuto un pochino di buon senso, avrebbe detto, ma se io in 15 giorni riesco a debellare questo cavolo di coso, di virus, non è meglio che sentirmi dire tra 15 giorni, oh ragazzi... Giuseppe, quello fa passaggi lunghi, poi come protezione la radio. Ah, ecco, anche lei è in quarantena. No, dicevo che mi dispiace solo per noi che stiamo facendo i sacrifici e non quelli che se ne fregano degli altri. Sì, ma infatti, io stamattina sono uscito per lavoro, per fare dei lavori, là, diciamo. Poi una volta che ho finito, sempre spostamenti vicino a casa, in macchina, mascherina e guanti, consegnato il lavoro e poi venuto qua a casa. Ma è così, ma io vedi, quelli che escono con i DPI giusti, li avrei fatti anche limitatamente, li avrei fatti circolare, perché uno deve andare a consegnare un lavoro, hai i guanti e la mascherina, ok, va bene. Così ho fatto. Sono andato, l'ho consegnato e poi sono venuto qua. Cosa devo fare, purtroppo. Vabbè, comunque quelli a rischio veramente sono i diabetici, chi ha problemi di tipo Graziano, vedi, il padre della mia 25 lo stesso, sono proprio a rischio, infatti non escono. No, ma quelli assolutamente, c'è mia suocera, figurati, che ha l'ossigeno, è già un anno col bombolone, figurati se i fizzi che è già età. Fino a 3 anni che c'è l'ossigeno. Ma io non ne so proprio per niente, ma ne manco un'idea, è a lui. E così è, grazie, bisogna stare molto molto attenti. Anche, è arrivato a un certo punto, ti dico una cosa, mia, anche chi non ha patologie, che prenda le precauzioni, che non sono mai troppe. Beh, già lo prendo, figurati, dalla nostra adesso a volte ricoverata e per dire e sono guzzarrata in casa, figurati sì, mi metti che già a me. Ma facciamo tutti gli scongiuri, grazie, ci mancherebbe altro, che poi ti ripeto, quando succedono queste cose meno gente entra a casa tua e più tranquillo stai, hai capito, a Giuseppe? Lo so, no, ma in casa mia non è che ci vengono molto, le mie figlie vengono con i miei generi, ma una volta ogni volta i babba vedi, e anche io ci vado poco e niente da loro quando ho in vita, molte volte non ci vado neanche, non mi rassicuri i figli a curiosità in casa con tutti i patologi di bacio. Allora, un'ora devi pigliare di medicina, da poi te lo so, casa a me mi viene male andare ai tutti, capo? Perché devo fare tutte queste cose? Ti capisco, grazie, ma ti piremmo bene, dai. Se è possibile le faccio a meno, se è possibile dico cazzo venite voi, io lo sai, mi devo pigliare i miei zii, mi devo buttare questo, mi devo buttare questo, a me mi dà fastidio, venite voi, gli dico, ecco, il più vengono loro. Anda bene, vai tu. Oh, mi sto sentendo 10 minuti, arrivo subito. Andave. Quindi mi stanno passando all'agriturismo lì per andare verso dove ci sono le scale a Conto, alla Riga, in questa zona lì. Anche mangiate da schifo, anche peso 40 euro a fassona, una vacca di là. E dopo che arrivano messo a puffata la pasta, mi ci sono così molto di frutta in casa. E non fai andare ai punti, non è che posso mangiare tutto che mi date, capito? Certo, grazie. Se una persona è indisposta e ha quegli orari anche di medicine e di quant'altro, cazzo, se viene in salita a muoversi da casa. Oh, sì, a me mi dà un fastidio così, in casa della mia cugina mi fa ricara la valigia, a chi ha chiesto la mia biglia, poi mi dà valigiurina, e mi dà fastidio a me, non è per non andarci, ma io glielo dico, non ci vengo, dice è bello fuori, ci porti le medicine, ma cosa, a me mi viene male, tutti ci disturbi. Ma è così, grazie a poi il discorso è anche questo, mi, che uno quando non sta bene a casa è sempre a casa sua. E infatti che ci dico, perché è a giorno, ha detto come, ha detto così, così ha di fare così a roccio. Figurati tu, e c'è cosa di là a casa di uno e dell'altro, no no? Oh sì, no no, sa, mi do a terra però, non mi sento a mio agio quando sono così. Grazie, il discorso è questo, che una persona poi quando sta male e non ha gana di a burparsi con uno e con l'altro, mi hai compreso? Infatti, a me mi fa così, non mi riesco a rimanere, pure da poi tutta la divina, cosa posso? E se da casa basta venire una stragata, tanto male mi sto vincato, o no? Beh certo, quello che dico io, grazie, poi ti ripeto, perlomeno questo è l'effetto che fa a me, quando io non sto bene, a casa è un'altra cosa, grazie, a casa so come comportarmi, mi sento un'altra persona, mi hai capito? A me mi fa la stessa cosa, tante Rusano e andare via tutti i giorni, anche mi stavo pure in terra, non mi capitava, bella da via, ma adesso non fa più, sono passati chissà, mi cavavia di tre bastoni che mi sbagliava, a me da quando mi chiese la mia testa e mi la ricordo di a chi prima il problema dell'intestino ce l'avevo, però c'è andato, capito, non è che già era pesante, però già mi arrangiavo. Ma adesso se ti lasci malanni che faccio non fate più. Cazzo, immaginati tu. Oi, oi, grazie. Rasta pigli. Poveri noi. Cazzo, un po' di voci di zii. Come diceva quello là, meglio ricco e sano che povero e malato. Uia, e cura a noi. E allora, quando c'è solo il disturbo all'intestino, mi faccio anche i campeggi, figurati. Anche se ero tutto bello con tutto l'occorrente, c'avevo la tenda con il bagno chimico, la mia tenda per dormire, i letti, va via, pure le brandine, dentro la tenda c'avevo il letto, figurati, mica mi cuccavo in terra, bello organizzato, la cucina cos'è in novina, ve la tutto, però prima c'avevo solo quel disturbo e si buia va. Dopo che mi è subentrata la diabete, mi sono giusti tutti gli altri malanni e ogni altro, non fa più. Che poi malattizione, cazzo, diabete micidiale, cazzo, ti narrega mille una cosa. Sì, guarda, a me mi ha pizzicato da rugore, mi sono giusti tre infarti, l'ultima volta me l'ha scampata da un pelo. Poi la toporosi già ce l'avevo, ma non è che era così avanzata, adesso ce l'ho più avanzata. A che bisogno non riesce a tirarsi l'anchi, dalla toporosi. E poi c'è il disturbo della pancia, cioè, e insomma, la atrosi è una giubbocca, diabete, più ce n'è più nei buoni, ogni adesso mi inizio un malanno nuovo. L'ultima volta mi sono scappata per un pelo, che mi parate, tre infarti mi sono giù. Aspetta, grazie a Bobo, mi zega. Mi sarei buttata la brossa soccorsa a bocca a bica, ero più molto che vivo. E l'altra volta mi si è pompata la pancia, un pallone, mi sarei buttata, mi sarei entrata immediatamente. Un tubo in un naso, hai cominciato a uscire il liquido, a giubbiero, 5 sacchi, a giubbiero, con un tubo in un naso. il lunetto senza maniera, senza nuda, inculato. Cavolo, quanto mi dispiace per occasione, bobo, e norabona. Poi l'altra volta sono rimasto quasi un mese con i macchinari, manca a mangiarmi gli anziani. Gli anziani che ci mangiano tramite vena, con una macchinetta, una cosa di sera, un sacchetto. E gli dice, io c'ho il grampo allo stomaco, lei sta mangiando, mi dice, e cosa so che mangi? So come un regno di fame. No, lei sta mangiando, mi dice, in dovena. Avevo una macchinaria con una sacchetta bianca, ma io chi c'è la Romagna a me? Poi, casi coro a Caviponi, grazie, mamma mia. Poi già l'ospedale è brutto così, anche quando entri solo per fare delle analisi. Figurati nelle condizioni in cui eri tu, per carità, casse, guarda. Ehi, e poi l'ossigeno ogni tanto mi si accelera, ancora, pare, mia adesso sono seduto. Ma altre volte mi si accelera ancora, la cuore è più qui. E per dire che ho, e però si accelera lo stesso il cuore. Cavolo, bobo, sei una cosa, è una cosa che non si crede. Ma tu hai mai fumato, grazie? A fumare già ho sempre fumato. Facevo un lavoro e ho fatto sempre l'autista. Ci ho tornato a lavorare in falegnameria, senza aspirazione, tutta cazzinata, e senza pannelli di cose a verniciare, senza macchina e senza nulla. Ma non ve la nulla che sta falegnameria, cioè già c'era il materiale. Le protezioni, si l'ha fatta in dinaghi. Cavolo, è tutto quello che ti hai respirato di vernice e di coso, mara di zionica. E quando morderò... La morte mi conosce di quando salgo i panelli fuori di MDF, sembra va a fumo, e poi c'è più guardo di MDF. L'MDF sono quei pannelli che oggi a fare mobili, cartonisti, come li facciamo cartonisti, e anche ponte, e bacconi buio, insomma di tutto fatto. Tagliavi quei fusi, sembrava un colore, invece quella era forse tutto lo respiravo, capito? Cavolo, mamma mia cara signora buona, figurati come ci avevi i polmoni intasati, mi grazia. Ti sto dicendo la sera quando arrivi a casa, le sputtavo, non per dire. Il chiamarro, le mediette marrono, no, quei pannini. E il chiamarro, ma vi pigliate pure le mascherine, ma non ci pigliate nulla, perché quando mi levavo la mascherina, mi guardavo tutto nel naso e ce l'avevo tutta la polvere intorno al naso. Dunque, filtrava lo stesso con le mascherine di bambino. E allora, quelle non servono a niente, ci volevano quelle con i filtri, con i due filtri, ma figurati se ti dà di anni nuda prima, poi, ma manco sapone per lavarci le mani ci davano prima. E poi l'ultimo anno me le ho comprate io le mascherine, perché lui non me ne comprava dove lavoravo, me le ho comprate io buone, infatti quando che me ne sono andato, perché intanto gliel'hanno chiusa alla falegnameria perché non era idonea, cioè a lavorare con quelle macchinari, non ci avevano protezione e gliel'hanno chiusa, l'hanno fatta la falegnameria. Mi ha aggiornato a regali mascherini mie, le avevo comprate io. Però intanto ero gli appizzicati da questa bucaria e maggior respirati. E infatti, grazie. Ma è cosa che chi più chi meno abbiamo passato un po' tutti, perché prima non c'era niente. E i verniciatori, te lo ricordi quando le carrozzerie di una volta, cos'erano? Garage erano. Ehi, garage, infatti mio fratello faceva il verniciatore, tempo di 3 anni l'ha distruttore. Ciamba della Vaglia girò muri, sputava anche il sangue, guardate a vedere. Io mi ricordo ce n'era una in via Zanfarino di carrozzeria. Cazzo, ma quando passavano, sei nuvoloni di polvere, di tinta che uscivano da quella serranda. Casa, lo sentivi da lontano l'odore delle, come ti si chiama, del diluente? Caro, sai cos'era da me quando verniciavo i cassonetti, le porte? Poi noi lì facevamo anche lavori di ferro, perché c'era uno che lavorava al ferro da noi, era Fabio, però lavorava insieme a noi, faceva di tutto come me, no? E faceva ringhiere, cancelli, e io lo aiutavo anche, verniciavamo di tutto. Dunque mi ha affidato odori, verniciatura, e più vado dritta alla legnameria, più ce ne è, più ne metti. Ma è così, Grazia, è così. Quelli hanno fatto i soldi con la nostra salute, perché nei tempi in cui eravamo giovani noi, cazzo, non c'era principale che non avesse campagna, non c'era principale che non avesse la seconda casa. Allora sai quanti appartamenti ci aveva quando me ne sono andato io, il mio principale? 48 appartamenti sparsi per la Sardegna, Sassari, Porto Torres, Alghero, Agrustos, Olbia. Io li so tutti, perché quando non c'era niente da fare in falegnameria, mi mandava, per dire, se ne andava una affittevole, mi mandava a dare una rinfrescata, a imbiancare, a aggiustare porte o finestre, chi ci veniva da cunza, cupri. Miserabili però, miserabili, perché se ne hanno approfittato della gente, ma se ne hanno sempre approfittato, grazie a della gente che ha avuto bisogno di lavorare in quel periodo. A me mi ha sempre trattato bene, perché ha visto che facevo tutto, capite? Io gli ho sempre fatto qualsiasi cosa che mi ha detto di fare di lavoro, gliel'ho sempre fatto, e fatto come si dice. E dunque a me già mi ha trattato bene, però sul fatto di sicurezza non era fustia nuda, non ha compreso. Ma è così, Grazia, infatti è quello che ti volevo dire, perché come cosa, come trattamento, anche a me, io ho lavorato tantissimi anni in officina, la verità è stato come un padre, però come cosa, come non strumentazione, no, cose di sicurezza, erami zero. Quando mettevi in moto le macchine lì dentro, un fumo, gas, e pari a una ghea in chi vi drena. E a chi si non, con questo furgone lungo 8 metri, cantina lunga, ma non me la metto. Un fumo, ma fumo, che mi fermo la venata, una dici, alle punte, oggi alle punte. Dice, partite libretto, un attimo che ti sto chiamando il titolare del mezzo. Partite libretto mio, non si ne do a te. L'ho chiamato, è venuto lui e ha detto, lì la patente è sua, chi la patente mia è la mia. A me non... Glielo avevo detto io che non potevo circolare con quel furgone. Pari un treno, un bar, di un fumo che negava. Glielo abbiamo fatto un verbale, ma lo sai, gatto, gliel'hanno bloccato lì il furgone, si è buttato un carratrice. Eia, grazie, ma è così. È per quello che ti dico che prima, chi più ne ha più ne metta, raga, a capo di arrascia di più. Buonasera. E chi è? Il Duccio Baradiandala. Ciao Giulio. Lo so Giulio, altro non lo so. È troppo forte, prova, sai che lo regolo. 1, 2, 3, 4. Ehi, adesso già ti sento meglio. Allora di parlare insieme a Giuseppe, insomma, lo senti? Già lo sento, ciao Giuseppe, salutoni. Ciao Antonio, già ti sento bene. Beato che ti sente, mannaggia. Già lo credo, mi senti bene, sono con la tenda esterna. È un'altra cosa, da un gommino. Ripigliatela, Giuseppe, fa girare. Io prima ce l'avevo l'antenna esterna e vi potevo ascoltare bene, ma adesso qua ancora non posso mettere niente sul tetto. Perché capito, torna a casa hai? Non abito più lì a Sacro Cuore, e adesso sono qui di fronte a Sassari 2. Vabbè, quando sei venuto a prendere i portatili, se ti ricordi bene, mi avevi detto che avevi cambiato zona, che a Sacro Cuore non c'è più, quindi sei sempre nella seconda casa, non terza. Io pensavo che avevi cambiato un'altra volta. No, abitavo al Sacro Cuore, Antonei, non ti ricordi? Ah, allora già va bene, ok. Ripigliate la grazia. Ehi, beh, non fa metterti un'antenna, non ce l'ha il terrazzo, nella ringhiera. Dici si minori, mi. Ce ne sono un casino di quelle antenne potenti, piccola, e pigliare dappertutto. Tonello? Sì, dimmi, Marco. Controllo veloce, perdonatemi. Com'è? 5, radio 5. QRT, ciao, a dopo. Ehi, Marco, a dopo, ok. Avanti, grazie. Ehi, ehi, anche io lo sento bene a Marco, ehi. Così è. Vabbè, chiuso e rifrigo. Per l'antenna, siccome il terrazzo qui dalla parte di cucina, ci vorrebbe troppo filo per arrivare allo studio, Grazia. Bisogna fare qualcosa con qualcuno che mi dia una mano per capire come fare. Antonio, dagliela tu una mano a Giuseppe, a vedere come può fare. Con la magnetica VU ci vuole, la mette nel terrazzino e voi gli accresce su questa frequenza, capito? Ma una magnetica un po' lunga, perché quella che avevo io di magnetica, Antonio, era piccolina, quella che avevo nella multipla. Giuseppe, c'è qualcosa nel telefono, Luigi, un sito cinese, cinese. Lì ho visto io la base magnetica, l'antenne, purba due cite, e lo stilo mi sembra che era 2 metri, 2 metri. Caspita, è una cosa del genere, ma anche se lo sfilo è 1,5 metri, mi può anche andar bene, cioè mi aiuta, perché quella che avevo è troppo piccolina. Ebbene, quel sito è cinese, Wishi si chiama. E lì che le ho viste io le antenne, a poco di là pure, però deve aspettare un mesetto che ti arrivi. Però le ho viste, erano un bel lunghe lo stilo. Io l'avevo presa una, però era più corta, 1,5 metri mi sembra. E poi non la stavo adoperando e l'ho venduta a mio fratello che abita qua vicino. Chi da me non ha mai drattato, se l'ha pigliata a Bannumaro, pa! Così è, ma io adesso vedo, se trovo l'antenna mi procuro anche una radio come si deve. Stavo cercando un Saturneco in giro, un buon usato, però mi pare non se ne acciappano più. Se guardi su internet è già lo trovo in vendita, a voglia che la cazzo, specialmente adesso. Cioè, devi guardare su internet che lo trovi. Io quello che l'avevo preso su internet. No, Gio Maria me l'aveva detto, da Milano, questa donna me l'aveva venduto. E poi però me l'ho venduto, era troppo lungo, mi pigliava. Gappa, riprendi tu, Antonè, che mi assento 2 minuti. Ehi, ok, aspetta, Marco. Dimmi, Antonè. Guarda quel WhatsApp, c'era nell'altro telefono, però non nel solito che ti ho dato io il numero, me. Ti avrei il numero nuovo. Dai, non c'è problema, un'altra volta, dai. Intanto sto mangiando. Ciao. Basta che mi chiama il numero vecchio e ti do il numero nuovo. Quello vogliamo, non è problema. Capito? Luca, ci sei? Hai ricevuto il tutto? Ehi, Marco, arrivi fortissimo, cavolo. Ma lo sai che sento gente che con l'altra antenna non sento. Buono a sapersi, comunque, fai girare, ciao. Io sono solo sui bimbi, mi fido ormai sui passaggi, ma comprare da altre parti non mi fido. Oh, Lu, io lì ho comprato decine di articoli, sono sempre arrivati tranne uno. Però credo che sia casino fatto dalle poste. Dai, ci sentiamo. Ciao a tutti, dai. Sì, ciao. Mi assento, arrivo subito. Ciao, Pompo. Ciao, Marco, a dopo. Ciao, Luca, salutoni. Arrivo subito, grazie, arrivo subito. Ehi, siamo qua, siamo qua. E beh, Antonio, ci vuole ancora all'ospedale. Ma non è già riuscita. Ma è uscita prima di succedere tutto questo casino che c'è adesso. Capito? È già a casa, è quasi 2 settimane a casa. Si sta ripigliando piano piano, adesso si alza, va, cammina, eccetera, eccetera, capito? Ehi, digli a fare la brava, non pippare, diglielo lui. Lei già ve l'ha giudito, quindi non pippare, che se pippa, ce la pippo io bene. Fa la magna, imbucci la magna, non vedi che basta la gala di fuma, caso va un rapino, gli dai un palino, magna di ghiaccio. E la sta mangiando già, ieri si è mangiato cioccolati, merendine, di tutto mangiato fino a cena. Fatti me, ma è allora, così è, purtroppo, avevo pure anche un casino buono, beh, vabbè che a me non me ne ha fatto nulla, intanto lui ci ruma a stessi, ma così è Antonio. Allora. Ma, ma speriamo che passi però, un casino, anche per andare al negozio, devi fare la fila, ma, Adesso devi fare la fila di 5 km qua, dove abito io. Lo so, devi fare la fila e entra solo una bazzona, roba la macchina. E uno, tre alla volta, quattro alla volta, non di più. Puoi ritirare la roba, te la mettere nel carrello senza metterla dentro la busta. Vai fuori e ti metti la roba dentro la busta stamattina. Dice, dove disposizioni? E ho detto, ascolta, facciamo una cosa, portate il carrello a casa, gli ho detto, tanto qui ci sono. Così quando lo riporto qui, almeno non mi attacco il coronavirus, gli ho detto. Avete finito la guerra, Zemmo, mi manca solo che ci toccano la tessera. E ci la dire una cosa contata, vabbè, speriamo che chi si andrà a fanculo il suo cavolo del virus. Hanno la cassa che l'ha posto in giro, chi me l'aveva mangiato vivo. Già lo sanno lì, già lo sai chi l'ha costruito quel virus, stavo sempre sperimentando, capito, come ammazzare le persone, per fare prima, poi quando sfugge il virus, capito? Allora, prima uno, poi 10, poi 100, poi 1000. Secondo me sono sperimentati a vedere come ti fatti secchi tutto a un colpo, tutti i canti, non hai compreso? Allora io ne fai più guerre già, ah? Adesso non ne fai più guerre nucleari, scusi, allora, quella è batteriologica, basta che passa un aereo, capito? Non ci vuole molto a diffondere il virus, no? E allora, e fate di piazza pulita, un bel l'onfia era addosso, andiamo un bel mare, vabbè, io vabbè, per me non me la fatti più, la vita me l'ha già fatta, e per i giovani che ci sono adesso, e quelli che ci sono piccolini, che mi preoccupo, che sarà un casino la vita, ma sai, secondo il mio parere. Mi preoccupo molto di lo sai, lentamente, come l'ebola e me, è nata malattia. E allora, gli altri la ricchiudiate la vecchia, se ti vuoi rimare, e vuoi rimare benzina, una razza, chi due tre da Russia, chi si digrebbe al volo? Avanti, avanti, chi vuole entrare, chi sta avanti che stava parlando? E chi è Antone? Non sa sa nessuno. No, non so, per infatti no, questi no, non c'entrava niente con noi. Ehi, per carità già, andiamo a me proprio. Antone, mi aspetto 5 minuti, rientro subito. Giuseppe, se ci sei, rientro subito. E io vabbè, ciu. Ah, va. avanti, avanti. Giù più giù, giù più giù. Antonello, mi faccio l'aerosol. Ho capito. Che adesso mi faccio l'aerosol, al limite entro dopo, va, appena finisco. Ti sento un bel basso a livello QRM. Cosa? Che ti sento a livello QRM. E adesso? Adesso vai bene. Ti stavo dicendo che mi sto facendo l'aerosol adesso, dopo rientro, appena finisco. Ehi, vabbè, non c'è problema, dai. Antonio. Io sono con l'ascolto. Ma come ti arrivo lì, Antonio? Chiuse, rientro dopo, vi faccio l'aerosol. Ehi, grazie, fai tranquillo, fai. Non è un problema, fai tranquillo. Sei radio 1, Giuseppe, sì. Radio 4, 5. Sto uscendo col gommino, Antonio. Sono qui in cucina, vicino al terrazzo. Ho voglia che arrivi qua. Già andava, va bene. L'importante è sentirsi, come ho detto a tutti, finiti sono i tempi delle gare a chi va più lontano. Una di quelle antenne a cosa, boh? Di quelle antenne per il VU. La metti con una staffetta L, la piazzi nel terrazzino dove stendimi, va bene lo stesso, beh. Vero. E adesso vedo un po', se riesco a trovare qualcosa qua su Sassari, o qualcuno che ce l'ha, se non se ne fa niente, se me la vende. Perché prendere così, Antone, da fuori, Ci sono le antenne, ce ne sono un sacco di antenne, questa è una fesseria. Anche su internet ci sono parecchi siti che vendono antenne, portatili a poco prezzo. Capito? Ascolta, Antone, è per la 27 un qualcosa da non mettere sul tetto? Sì, per la 27 la mettere sopra il tetto, certo non ti puoi mettere la manto, ma no, non ne vale più la pena ormai. Non abbiamo 27L, ti prendi una Energy 5 ottavi, mi sembra che costa intorno agli 80 euro. È leggera, non devi impazzire a piazzarla, è leggera, pesa mezzo chilo, pesa. E tu va che va, a voglia. Ma infatti una cosa così, una cosa leggera, anche perché quella là l'ho lasciata là dove abitavo prima, mica ci sono salito a smontarnela. La tela, così già va bene, una 5 ottavi della Midland, la Energy si chiama, già si trova. Gappa. E vabbè, tanto per adesso, Antonè, non sto facendo niente perché ancora è presto, qua ci sono, faccio 2 anni ad aprile che ci sono. Però quando è il momento magari già ti chiamo e mi dai qualche consiglio su cosa prendere. Quando sarà il momento che vuoi installarla, la pitta tra in via, ti piazzi una all'altra, ti metti quella per la V e sotto VU e sopra ti metti quella per la 27, ti fai scendere 2 cavi e va a far cuffia, con la 1058 va bene lo stesso. Infatti, perché io l'apparecchiatura ce l'ho dalla parte di dietro, Antone, non dalla parte del terrazzo, e quindi anche volendo mettere l'antenna qui, nel terrazzo devo far passare il filo per mezza casa. Antone! Vabbè, allora già va bene, se mette l'antenna lì, non c'è a voglia, dimmi poi. Buonasera anche a Giuseppe. Dili che se ci vuol fare un'antenna autocostruita per la 27 ci sei una disposizione. Ciao, sì, perché ha un qualcosa di piccolo perché qua non voglio mettere cosa molto vistosa sul tetto, anche da voi al minimo problema, anche se non c'entro niente, da voi state in inchivi a rompittimi. Ma è autocostruita, quella della 27, la mia è 7 metri e qualcosa. Insega, cazzarola, è grande. Il 27 è grande, il piccolo non trovi nulla, e cosa vuoi mettere di piccolo? Diglielo tu, Antonè. Di piccolo l'unica cosa che c'è è bazooka, ma non è che venda tanto, quindi... Ma lo credo, non sia fortunato, trovo la catena di barca da mettere, quella non c'è bisogno di manco di massa, e non vende manco molto, manco quella, però che non fa un dipolo, basta piare le misure e si costruisce con filo elettrico, non è quello il problema. E anche perché io qui, dove sono io, ho tutto libero, mi Antonè. Quindi tutta la zona vostra la prendo bene, tutto Porto Torres lo prendo bene, Castelsardo di Lusso, ho tutto aperto qua. Il posto non l'ho visto, bisognerebbe che l'ho vera. È vero il posto, in modo da installarti qualche antenna, come ti direbbe, non lo so. Questo dovrai decidere tu quanto spendere e cosa comprarti. E infatti, poi quando è il momento, Antonè, già lo vediamo. Ti ripeto, ancora è presto. Vabbè, quello già è vero. Kappa, ma quello già è andato nelle macchine, non è quello, ma ti fai due staffe. Un ti compri un'antenna per la VLU e un'altra staffetta ti metti l'antenna per l'antenna per macchina tu, ma quanto mi ricordo io. Ti fai la staffetta e te la metti tutte e due lettere assieme provvisoriamente. Poi in seguito deciderai di salire sopra e fatti l'impianto come si deve. E anche così è un'idea. Può essere un'idea anche quella, anche se stavo pensando quelle, io c'avevo anche la Storm dove abitavo prima, cazzo, uscivo anche abbastanza bene, mi Antonè. Ho capito la cerette adesso. Ho detto dove abitavo prima, sono uscito anche con la Storm, ti ricordi quell'antenna che sembrava un manico di scopa? Quella in pratica era il bazooka, la W27, quella l'avete agganciata a un, come si chiama, una di quelle staffette a L, e già funziona già. Già si trovano, io ne ho trovato una a fianco al castello stasera, di quelle staffette parabola. Caspita, di lusso. Ascolta, ma dovendola piazzare quella, se la dovessi agganciare al palo dell'antenna mia, della televisione, mi crea problemi? No, io ho trovato e non disturbava nessuno. E allora mi sa che ho trovato la soluzione, perché con quella sono tranquillo, non si vede niente, Antonè. Mamma mia, cara casa, quando avevo la Mantova dove abitavo prima erano sempre problemi, e gente che aveva problemi e poi i problemi erano i suoi perché c'aveva, va via l'antenna tutta canta frazzica. Prima ce l'è così, poi anche io ho avuto problemi sempre a questo, quando ho installato, prima c'era la Mantova, poi ho installato le altre tre antenne, ma l'avessi fatto, tutti sono venuti a girarmi le balle, ho preso due risposte. Ho detto fate quello che vi pare vi piace, detto, io ho il diploma, quindi vi ho detto fate una cosa, prendetela in corsa tutti quanti e mettete detto, la faccia dietro. E questa è detto, la concessione, ho detto già a capocondume, ho detto guardatela bene e fagliela bene a chi lo meglio, ho detto. Ho detto l'altro parlato, dice no, a un certo punto fai come cazzo ti pare ti piace, piazza quello che vuoi, mi ha detto. Sì, hai fatto bene. Avanti Tore. Guarda, io ci ho messo antenna autocostruita della 27 e c'ho tutto vicino e non disturbo nessuno, questa non disturba e non fa nulla, quindi sì, ma anche la mia abbiamo fatto le prove anche, non disturbava nessuno, è soltanto la gente che quando non sa cosa cacchio fare, che ha problemi già suoi di ricezione, sta lì a romperti le palle. Ma guarda, con i televisori che ci sono adesso, digitali, non dovresti dare di disturbo a nessuno, perché no, non entri più con quelli digitali. Ma speriamo bene, dai, comunque adesso no, comunque mi organizzo e qualche prova la voglio fare, perché da qui sono sicuro, come ho detto Antonello, di uscire bene, perché ho campo libero da tutte le parti. E allora, a voglia, basta che la metti mia appena più su delle antenne dei televisori e non disturba. Un palo magari da attaccato lì con delle fasce e appena più su e non dovresti disturbare a nessuno. E così faccio, così almeno mi sistemo anch'io. Il filo lo faccio scendere dalla parte di dietro. già ho amici che hanno la, perché lo voglio fare fascettare al tubo della grondaia dalla parte di dietro in maniera che non si veda niente. Sì, io ci ho messo due staffe di cosomi, quella in crucio ci ho messo belle grosse, eppure ho visto che con il vento forte non si è spostata per nulla, ce l'ho già 2 anni attaccata. Figurati, allora è di lusso così. L'importante è quello, perché il vento è quello che temevo di più io. Sì, guarda, le staffe le trovi da coso, quello dietro il panificio di Cesaraccio, le trovi. Ah, ho capito, sì. Hai capito che staffe sto dicendo, sì. Guardate il tubo e trovi le staffe, che sono a triangolo, una cosa a stella sono, che prendi 2 tubi. Hai capito? Tubo orizzontale e tubo verticale. Sì, sì, no, già ho capito. E quelle lì prendo, perché se mi dici che sono buone è di lusso. Hanno 4 bolloni a una parte e 4 bolloni all'altra. Quindi aggancio il palo che ho in più, o prendo anche il palo dell'antenna con la stessa staffa. E infatti, e ti agganci lì. E ne metti 2 e sei a posto, non hai di bucare né nulla. E infatti soprattutto, soprattutto. E poi il cavo, come ti stavo dicendo, dalla parte dietro, lo voglio far scendere muro muro dietro il tubo del pluviale, no? In maniera che non si veda niente. E magari glielo... Gli metti delle fascette da tenere a non muoversi il cavo da lì con il vento. Infatti, ma ho amici che hanno la cosa, la scala aerea, ma anche pagandoglielo, 10 minuti si avvicina, gli do un pacchetto di fascette e me lo faccio tutto fascettare bene. Poi una volta che me lo porto all'altezza di finestra, lì già mi arrangio io. Io voglia, catta. C'è dal tetto io, ce ne ho sceso 3 cavi, pensa un po'. Cavolo, a 3 a 3. Tre ne ho, c'ho 3 antenne su. una che me l'hanno costruita, ma non serve a nulla. L'altra è costruita dalla 27 e c'ho quella bianca del PMR. Vedi, quella è una bella cosa, quella è una bella che ci sto pensando anch'io, di portarmela giù una anche per il PMR. Adesso vediamo, secondo come mi trovo al giorno, perché avendola sul tetto è di lusso, parli con mezzo mondo. Infatti io ho l'antenna questa bianca, la cosa che non mi ricordo come si chiama, Antonello la conosce, che c'ha i stili piccolini, 50 cm di stilo, ce ne sono 3, ce ne sono, e prendo tutti quanti, prendo. E così vuole. E così vuole. Vai Antonè, che io devo chiudere la finestra qua. 2 minuti. Aspetto. Lo signor Giomari, buonasera. Che va, signori? Perché stavo dando dei suggerimenti a Giuseppe. Sì, c'era Antonello. Ha chiuso. No, Giuseppe si è spostato e Antonello non lo so se ha chiuso. Antonello, ci sei? Ma è uscito Antonello? In casa sua, Ah, allora io ne è uscito, meglio così allora. Antonello! Tu dici il tuffato a Ripondì. Beccio, e cosa me racconti? Sì, mettendo delle viti a questo stereo, lo sto chiudendo. C'hai il coso bruciato del DVD, ci ha bruciato. Ah, ho capito. Sai, io il DVD ce l'ho, non mi apre il cassettino, chissà cosa c'è il cassettino. Peccato, verrà Felix. Cos'è che non ti apre il cassettino per entrare il disco? Ehi! Cazzo, per metterci il disco, no? Non mi apre. Boh. Siccome c'è anche la radio questo qua, no? Ma tutto funziona, a meno che non mi apre le cassettine dei CD. Ma il CD ce l'ha dietro, ce l'ha, così è. Si deve aprire il frontalino, si deve aprire. Per metterci il CD no. C'è un tasto a bassi, si dovrebbe aprire, ci metti i CD e dopo si chiude automaticamente. Si è rotta la molla delle per aprirsi il meccanismo, si è rotta la molla e non ti si apre. Ah, per quello deve essere la molla. Oh, c'è un saccaccio d'anni, ma ha sempre funzionato bene invece. Da poco che l'ho provato, ho visto che non mi apre. Beh, tutto funziona, però tranne che quel cassettino non si apre. E allora forza Vittorio, me lo faccio controllare. Oh, io ce n'ho uno che gli hanno eliminato la molla, tutto l'ingranaggio gli hanno eliminato. Quindi si apre e lo devi chiudere a mano. Hai capito? No, questo è fatto tutto automaticamente, capito? E radio e CD, capito questo qua, della Philips. E c'ha anche 2, 4 e più i subita, 4 altoparlanti e più i subito. E una camera, 2, 3 una pa a una parete e dietro ne ha 2, e più i subita là, sotto i CD e i DVD. La molla degli ingranaggi si è rotta per aprirsi lo sportellino. Sicuramente si è rotta la molla, si è rotta e non ti apre per aprire, perché funziona con ingranaggi, funziona. Ma io lo porto, lo faccio controllare. Grazie, un saccaccio CD non riesco a usarle perché non mi apre. Oh, già ce n'è un altro, ed è un altro combinato pure, che fa CD e DVD e radio, anche quello c'ho. Ma questo, cioè questa cameretta qua, è CD e radio. CD e radio. Si è bloccato. La molla si deve essere rotta dentro. Si deve essere rotta la molla. E chi lo apre? Sono le persone competenti, lo posso aprire a guardarlo, che lo porterò, me lo faccio controllare là. No, perché serve sempre, capito? Per cui solo i cassettini quello mi apre, capito? La radio funziona, tutto a posto. Solo i CD non li posso usare perché non apre. Si è rotta la molla, lì si deve essere rotta, perché c'è una mollettina per quando lo si apre, perché quella molla lì spinge per aprirsi. Lo farò vedere. Bene. Allora, già combinato oggi tu? Io so che oggi combina da rimani, so che oggi combina da oggi. Anzi, ma così a giorno, sono andato a pigliarmi rubani da Cesaraccio e boh. Adesso che ho rientrato, dopo io ho buttato i rugani in giro a fare un giretto e rientrato. Adesso qui in casa. Grazie, da casa tua Cesaraccio è lontano, Però ti hai fatto la passeggiata così? Sì, con la macchina. Ah, è lontano fermo. Già lo grido, così faccio e così è. Ho detto lontano fermo. E chi mi ferma? Se mi fermano sto andando a fare la spesa. La scusa buona, va bene. Macello, Cazzo, sei arrivato in casa, cazzo. Un attimino, Giomari, che chiudo, metto le vite a questa radio e ho finito. Fai. Giomari, sei sulla 27. Ci sono in FM, ci sono i... sembra che sono brasiliani quelli lì. In AM sono. No, in FM sono tu. E li sono ascoltati in FM perché in M li sentivo male. Portoghesi so. Mi passa in FM. Alle 6 città. Ehi, a Giomari. Ma a noi non ci disturbano, no? L'avviso vedi cosa vuoi fare. Ma che siamo... Si sentono anche le M, si sentono bassi bassi e rompono. Tanto subito entrerà Bacchisio qua. Ehi, ciacchia, ve lo fai. E lui, lui, lui, lui, lui. E lui, lui, lui. E lui, lui, lui, lui, lui, lui, lui, lui, lui, lui, lui, lui, lui, lui, lui, lui, lui, lui, lui, lui, lui, lui, lui, lui, lui, lui, lui, lui, lui, lui, lui, lui, lui, lui, lui, lui, lui, lui, lui, lui, lui, lui, lui, lui, lui, lui, lui, Pompo, Jeff Beckman! Pompo, Jeff Beckman! Chuuu, chuuu, chuuu, chuuu, chuuu, chuuu!